dovete dare la stanza vuota. Il cane santissimo, davvero in spagnola. Misericordia santissima. Da noi, da me! Santissima, la Madonna del Signore e dei dipersi alla stazione. Misericordia Santissima!